Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi vi offriamo una bella digressione musicale nel percorso che ci sta accompagnando verso l'estate. Lo faremo portandovi la testimonianza di un giovane musicista italiano che, dopo aver studiato in Italia al conservatorio e aver approfondito la sua formazione oltremanica, ha deciso di lanciare proprio a Londra la sua idea di impresa. Con lui oggi vi porteremo alla scoperta delle opportunità in Gran Bretagna, nel mondo della musica e, se vogliamo, anche nel mondo imprenditoriale, Brexit permettendo ovviamente. I consueti suggerimenti mensili di Francesca Barbieri su bandi e opportunità oltre confine ci faranno da apripista in questa prima puntata di giugno. Ad aiutarci a trovare offerte di impiego oltre confine arriveranno più tardi anche i consulenti di Eures Italia con offerte di lavoro in Europa. E a chiudere vi regaleremo spunti utili su come fare impresa all'estero insieme a Mario Gastaldi. Londra ci aspetta e vi aspetta in questa prima puntata di giugno di Generazione Mobile. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana ci arriva dalla Germania, dove il governo tedesco ha deciso di offrire supporto economico agli studenti stranieri. La ministra per l'educazione e la ricerca, Anja Karliczek, ha annunciato la creazione di un programma di prestiti senza interessi che intende assicurare il proseguimento del percorso di formazione agli studenti che si trovano nel paese. Lo rende noto My German University, portale specializzato sui percorsi di studio in Germania, secondo il quale quasi 400.000 studenti internazionali sono iscritti presso un'università tedesca. Nel 2019 si trovavano in terra teutonica oltre 9.000 studenti italiani. E siamo arrivati così a Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi utili ad orientarvi nel mondo del lavoro internazionale. Tornano anche i consigli pratici del Sole 24 Ore. Ascoltiamo allora cosa ci riserva il menù odierno insieme alla collega Francesca Barbieri. I Double Joint Degree non solo permettono di conseguire due lauree riconosciute in Italia e all'estero in una volta sola, ma anche di trascorrere un periodo di tempo oltre confine. Si tratta di corsi di studio progettati in comune tra università di paesi diversi e regolati da specifici accordi negoziali. Nel caso del Joint Degree il titolo accademico è unico e rilasciato congiuntamente, mentre per il Double Degree si tratta di due o più diplomi di laurea rilasciati dagli istituti accademici coinvolti nel progetto. E il coronavirus non è riuscito a bloccare queste proposte. I doppi titoli in partenza per il prossimo anno accademico sono oltre 700, concentrati soprattutto nelle università pubbliche italiane. Un'offerta più ricca di un centinaio di corsi rispetto al 2019. 2020. Si va da psicologia a ingegneria, da economia fino alle biotecnologie. Per il prossimo semestre la maggior parte delle università, a causa dell'emergenza Covid-19, prevede corsi a distanza, con la speranza di tornare poi alla normalità già all'inizio del 2021. Tra gli atenei con il maggior numero di proposte c'è la Sapienza di Roma, che ha superato quest'anno gli 8.000 iscritti agli oltre 60 Double Degree. Ma anche l'Università Ca' Foscari di Venezia, che vanta nuovi accordi con prestigiose università di tutto il mondo, come la Sorbona di Parigi, e gli studenti sono raddoppiati negli ultimi 5 anni. A Padova ci sono corsi di laurea di tipo Double o Joint Degree, di cui uno a ciclo unico, uno di laurea triennale e 19 corsi magistrali. E l'Università di Pisa conta 2 lauree triennali, 21 magistrali e 5 dottorati di ricerca di tipo Double o Joint Degree. Le tasse universitarie sono generalmente le stesse di un corso di laurea tradizionale. In aggiunta c'è però il costo del soggiorno all'estero, anche se molti atenei mettono a disposizione borse di studio. Per trovare informazioni basta consultare i siti delle università italiane nelle sezioni dedicate ai progetti internazionali. Bene, ringraziamo Francesca Barbieri e passiamo ora alla testimone della settimana. Si tratta di un musicista italiano 38enne che ha puntato tutto sulla Gran Bretagna. Riccardo non solo ha trovato oltremanica terreno fertile per la sua attività professionale, ma ha anche lanciato il proprio progetto imprenditoriale e oggi è qui a indicarvi una strada possibile. Buon pomeriggio Riccardo Romano. Buon pomeriggio Sergio. Ti diplomi in composizione al Conservatorio di Alessandria, prosegui gli studi in Accademia tra Verona e Siena prima di trasferirti a Londra. Perché questa scelta innanzitutto di tentare la carriera oltremanica? Ma guarda, avevo già fatto delle esperienze all'estero tra Londra e Los Angeles e inoltre stavo affrontando delle difficoltà in ambito musicale in Italia in quel periodo, per cui sicuramente c'era la voglia di fare una prova e spostarsi oltre confine. E ci riassumi brevemente anche le tappe successive della tua carriera professionale in Gran Bretagna? Certo, una volta stabilito a Londra ho aperto il mio business, RMN Music, e allo stesso tempo ho seguito vari corsi, ho studiato direzione d'orchestra e alcune masterclass in composizione al Royal College of Music e ho studiato anche management e leadership. Interrompiamo un attimo questa digressione sulla tua storia per farci dire da te come sono state queste settimane, questi mesi a Londra, in Gran Bretagna, un paese colpito pesantemente dall'epidemia. Com'è stata la vita anche professionale? Ma guarda, siamo stati colpiti abbastanza in modo pesante, per cui l'obbligo era di stare chiusi in casa, soltanto i lavori, quelli più essenziali, avevano la disponibilità e la possibilità di spostarsi al di fuori della casa. In ambito musicale noi tutte le produzioni, tutti i concerti sono stati sospesi, per cui lavorando da casa ci siamo concentrati soprattutto su sviluppo di idee e progetti. Lo hai detto tu poco fa, hai fondato RMN Music in Gran Bretagna. Riccardo, perché il salto nell'esperienza imprenditoriale? Ma non ero del tutto digiuno di esperienze imprenditoriali, già durante gli anni di accademia avevo cercato di lanciare alcune idee, alcune start-up, purtroppo senza riuscirci per questioni legate al mondo italiano, al mondo lavorativo italiano. E poi contemporaneamente, sapendomi a Londra, vari miei contatti hanno iniziato a chiedermi se potevo pubblicare la loro musica, quindi ho deciso di fare il salto. E adesso quali iniziative stai portando avanti attualmente con la tua etichetta? Ma in questo periodo siamo concentrati soprattutto su produzione e promozione di artisti e musicisti legati al lavoro della musica classica e della musica contemporanea. Pubblichiamo alcune collane di album, per esempio il 3 di giugno è uscito il quinto volume di Electroacoustic and Beyond, dedicato alla musica elettronica contemporanea, e il prossimo luglio uscirà il secondo volume di In Focus, dedicato alla musica da camera contemporanea. Arriviamo ai tuoi consigli pratici, Riccardo, per tutti i giovani musicisti che vogliono tentare la carriera oltremanica. Partirei da chi vuole studiare in Gran Bretagna. Ha senso farlo in ambito musicale e su cosa puntare? Certamente la Gran Bretagna è uno dei posti migliori dove poter studiare musica. Il mio consiglio è di puntare college tipo Royal College of Music o Royal Academy of Music o università di pari livello, perché queste facilitano l'entrata nel mondo del lavoro attraverso collegamenti con orchestre ed enti. A volte può anche non essere un problema strettamente economico, perché ci sono interessanti borse di studio, ad esempio ce ne sono di pubbliche? C'è una borsa di studio pubblica molto importante che si chiama Student Finance Loan, che copre i costi del corso di laurea e anche i costi di vitto e alloggio, e tra l'altro è ancora disponibile per l'anno accademico 2020-2021 per studenti europei. E a livello privato? A livello privato ce ne sono tantissime, ma variano molto da università a università. Un esempio che posso portare è quello di Oxford, che conta più di 1100 borse di studio private. Di formazione tu sei un compositore e ti chiedo subito quale mercato c'è oltremanica per chi vuole sfondare, diciamo, pure in questo settore, quello della composizione. Ma c'è molta richiesta di musica, sia nell'ambito dei teatri, sia per concerti. Uno dei settori più richiesto, sicuramente legato alla musica dei film, musica per immagine, quindi anche la TV. Ma allo stesso tempo c'è tantissima competizione ad altissimi livelli. E hai dei siti o dei punti di riferimento da dare a chi volesse iniziare una carriera musicale in Gran Bretagna? Assolutamente, alcuni siti di riferimento che consiglio sono il Musicians Union oppure The Ivors Academy, che sono le due associazioni principali e aiutano tantissimo a lanciare una carriera, sia in ambito come compositore o come musicista. Riccardo, il focus principale con te chiaramente è l'ambito imprenditoriale, ovviamente nel settore musicale. Ti chiedo subito come si apre una LTD, una Limited Company a Londra. Serve molto tempo? È semplicissimo, servono 3 ore e 12 sterline, direttamente online dal sito del governo ed è operativa. Al di là della facilità con cui si può aprire una LTD, consigli di seguire dei corsi per formarsi imprenditorialmente? Ci sono dei corsi, io consiglierei sì, di seguire dei corsi, di solito sono molto brevi, sono intensivi e preparano all'apertura dell'ETD e anche e soprattutto riguardo gli obblighi successivi all'apertura. Di solito sono corsi offerti da incubatori d'impresa o da banche, ma ce ne sono anche universitari, cioè, ci sono varie scuole private che offrono questo tipo di corsi. Riccardo, li hai citati ed è un tema su cui vorrei focalizzare con te. Ed è quello dei coworking, incubatori, business angels. Allora, quanto è sviluppato l'ecosistema startup londinese per rispondere alle esigenze di chi intende aprire un'impresa anche innovativa? È davvero molto sviluppato. L'ecosistema è davvero ampio e include innumerevoli investitori o società di investimento o società di incubazione, crescita, sviluppo, per cui c'è davvero la possibilità di fare impresa, ci sono molte soluzioni diverse, includendo anche co-working spaces e molto altro. Hai qualche punto di riferimento da suggerire in questo senso? Ce ne sono molti. Io, il mio suggerimento per chi vuole provare in ambito musicale o comunque dell'intrattenimento è di nuovo attraverso le associazioni di categoria. Le due principali sono la British Phonographic Industry e la seconda l'Association of Independent Musicians, facili da trovare online e sono ottime perché attraverso eventi, networking, brevi corsi e molto altro aiutano l'impresa a crescere, aiutano l'impresa a introdursi nel mercato. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Quando arriva la cassa integrazione? Dove ritiro i buoni per fare la spesa? Posso sospendere il mutuo e le rette dell'asilo nido? Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Il coronavirus ha mandato in crisi tutti gli italiani. Mutuo, affitto, bollette, rate e persino la spesa quotidiana per migliaia di persone sono diventati un incubo. Parte così Homo Covid, lo sportello aperto agli ascoltatori che troveranno le risposte di cui hanno bisogno sul sito di Radio 24. In collaborazione con consumerismo.it. Metteremo insieme i vostri quesiti per dare una risposta unica alle domande di tutti. Un prontuario per famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare una delle crisi più gravi mai vissute prima dal nostro paese. Scrivete a duedidenari@radio24.it e redazione@consumerismo.it. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Riccardo Romano, 38enne compositore e imprenditore nel settore musicale oltremanica. Insieme a Riccardo abbiamo intrapreso un vero e proprio viaggio in musica questo pomeriggio per poter offrire a tutti voi, giovani ascoltatori dal grande potenziale artistico, un ticket per una carriera oltre confine. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Riccardo, vita a Londra. Perché scegliere una casa condivisa per iniziare? Questa è la soluzione che suggerisci tu? Sicuramente sì, casa condivisa, gli affitti sono stellari, la vita è molto cara, per cui attraverso la casa condivisa si riesce ad abbattere il costo dell'alloggio. E qui arriviamo al punto fondamentale: dove e come cercarla questa casa in condivisione a Londra? Allora, ci sono alcuni siti che io raccomando, tra cui Spareroom o Zoopla o Rightmove, sono tre dei più importanti e quotati siti dove poter trovare stanze in condivisione, case in condivisione. Non dimenticatevi soprattutto il NIN o NIN, cos'è e a cosa serve? Allora, NIN è abbreviazione per National Insurance Number, è essenziale per poter lavorare e avere accesso al sistema sanitario. Quindi sì, semplice, attraverso una semplice richiesta e un colloquio si ottiene il NIN e si è pronti a partire. Brexit ovviamente resta un enorme, gigantesco punto di domanda sul futuro. Consiglieresti a un tuo amico o collega, magari musicista, di venire a lavorare o aprire un'impresa oltremanica adesso? Il mio consiglio, sì, io consiglierei ancora di venire, c'è ancora tempo, fino alla fine del 2020 c'è ancora tempo per poter arrivare e avviare un'impresa, fare impresa. Per cui il mio consiglio è a chi vuole provare di provarci. Ci raggiunge ora in linea Giulia Sardi, violinista presso alcune delle più importanti orchestre tedesche. Buon pomeriggio, Giulia. Buon pomeriggio, Sergio. Studi al conservatorio e ti diplomi in violino. 6 anni fa ti sposti al conservatorio di Maastricht in Olanda, 3 anni fa inizi a lavorare come stagista tra i violini dell'orchestra sinfonica di Aachen Aquisgrana in Germania. Dopo la laurea nel 2018 inizi infine a lavorare come violino nell'orchestra di Francoforte. E a breve cosa accadrà nella tua carriera? Sì, Sergio, proprio a gennaio di quest'anno ho avuto la fortuna di poter completare con successo un'audizione per posto fisso al teatro di Kassel. A Francoforte avevo un contratto a termine e da settembre invece potrò lavorare tra i primi violini dell'orchestra del Teatro d'Opera qui a Kassel in Asia Centrale. Innanzitutto in bocca al lupo, e come i nostri ascoltatori avranno capito, stiamo spostando ora il focus verso la Germania dalla Gran Bretagna, perché la Germania è una delle piazze, resta una delle piazze più interessanti a livello proprio di opportunità di lavoro per chi lavora nella musica, soprattutto la musica classica. E arriverei ai tuoi consigli pratici, Giulia. Il primo è specializzarsi. Come? Sì, dunque, specializzarsi non soltanto studiando con serietà e impegno, ma quello che a mio avviso è un pochino il nocciolo della questione è quello di poter offrire al mercato lavorativo un vero prodotto di qualità, saper appunto soddisfare l'acquirente o il richiedente. In altre parole, il richiedente può essere una commissione esaminatrice per un'audizione, un concorso, così come un fan che acquista un tuo CD o un'agenzia che ti rappresenta. Come prepararsi alle audizioni all'estero, in particolare in Germania, mercato insomma lavorativo in cui sei estremamente specializzato ormai? Sì, dunque, prima di tutto è fondamentale la scelta dell'audizione da affrontare. Trovo che sia sempre bene prefiggersi degli obiettivi realistici e raggiungibili, per poi passare eventualmente, gradualmente, a mete più ambiziose. In secondo luogo bisogna analizzare le specifiche competenze che sono richieste dall'audizione, perché ogni audizione è un po' diversa. Se sono uno studente che vuole specializzarsi in Germania, naturalmente mi saranno richieste alcune competenze espressive, mi sarà richiesto di mostrare le mie qualità, ma la tecnica verrà poi imparata durante gli anni di studio. Diversamente, per un'audizione, per un posto di lavoro, bisogna veramente essere solidi e dimostrare di saper padroneggiare il proprio strumento a tutto tondo. E poi c'è una domanda che secondo me interessa tanti nostri ascoltatori, cioè dove trovare informazioni sulle opportunità di lavoro in ambito della musica classica nel Nord Europa, Olanda e soprattutto Germania. Hai dei siti a consigliare, insomma, dei riferimenti da fornire? Certo, dunque, innanzitutto come siti abbiamo MoveHack, move.hack, che offre veramente un panorama molto ricco di offerte di vari tipi, stagisti, posti fissi, posti a scadenza e soprattutto offre veramente molti concorsi di settimana in settimana, perché la Germania vanta ben 128 orchestre che mensilmente bandiscono concorsi. In secondo luogo abbiamo DB Strings, DB Strings, e poi abbiamo Music Job. Queste sono tutte piattaforme che offrono regolarmente bandi di concorso. Alternativamente, penso che un altro importante modo per informarsi sia quello di parlare con i colleghi. Infatti, veramente si possono trovare moltissimi spunti e idee parlando con colleghi che magari sanno di posti e di concorsi. Grazie a Giulia Sardi soprattutto per i consigli pratici che hai dato, che sono certo sono stati molto apprezzati, e in bocca al lupo per la tua carriera. Domanda di rito per Riccardo Romano: quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Allora, consiglio pratico, io direi soprattutto arrivare preparati, con questo intendo cose molto terra terra, tipo come funziona la scheda telefonica, come funziona il conto bancario, quindi avere già delle idee su questi due aspetti, ma soprattutto cercare in internet la zona della città in cui si vuole stare, perché non è detto che la zona dove si pensa di affittare sia una zona sicura, per cui conoscere la zona è importante, e sicuramente arrivare con la mente aperta e essere come dire, pronti allo shock culturale che sicuramente ci sarà. Ringraziamo allora Riccardo Romano e siamo anche arrivati a questo punto alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia. Sentiamo allora quali sono le novità. Buongiorno, oggi parleremo di Eures, il portale europeo della mobilità professionale. Eures, acronimo di European Employment Services, è una rete di cooperazione tra Commissione Europea, Ufficio di Coordinamento Nazionale e Servizi per l'Impiego che opera negli Stati membri dell'UE. 28 paesi più Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, e ha lo scopo di facilitare la mobilità dei lavoratori all'interno dello spazio europeo. Eures fornisce informazioni, consigli, organizza reclutamenti di personale, si occupa di matching tra domande e offerta di lavoro e di placement, naturalmente erogando il servizio sia alle persone in cerca di lavoro che alle aziende e ad ogni altro cittadino che voglia beneficiare del principio di libera circolazione delle persone. Eures fornisce strumenti informativi che hanno lo scopo di dare aiuto e supporto nei casi di mobilità verso un altro paese o di reclutare personale che proviene da altri paesi europei. Eures offre tre servizi essenziali: informazione, orientamento e placement a lavoratori e datori di lavoro interessati al mercato del lavoro europeo. Sul portale Eures sono presenti oltre 200.000 curricula, oltre 15.000 datori di lavoro registrati. Eures promuove il mercato del lavoro digitale, il futuro del lavoro all'interno dello spazio europeo. Il portale offre servizi a una generazione mobile che lavora in contesti multilingue. Eures permette l'accesso a informazioni molto importanti, sia di natura legale o pratica, in tempi veloci, in modo affidabile e digitale. Per approfondire potete collegarvi al sito ec.europa.eu/eures. Bene, siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Torna a Imprenditori Globali, lo spazio mensile di consigli su come andare a fare impresa oltre confine. E torna con noi anche Mario Gastaldi, consulente internazionale e creatore del gruppo Facebook L'Arte dell'Espatrio Ragionato. Mario oggi ci porta in Marocco. Per i tanti imprenditori globali italiani che vogliono lasciare l'Europa senza allontanarsi troppo, il Marocco offre possibilità decisamente interessanti. Siamo in un periodo storico di cambiamento, i modelli di business più promettenti sono in evoluzione. Vediamo le opportunità del Marocco in questo momento, iniziando con alcune informazioni generali. Si tratta di un paese sviluppato e moderno, con una qualità della vita medio-alta. In Marocco è possibile costituire società con forme giuridiche simili a quelle del diritto italiano e francese, un aspetto che vi regala una certa familiarità. E il Marocco ha un accordo sulla doppia imposizione con l'Italia e ha storicamente creato incentivi per gli imprenditori stranieri in una serie di leggi prodotte negli anni più recenti. Eccole. Le export companies sono aziende che svolgono attività di esportazione, pagano un'imposta pari a zero per i primi 5 anni di costituzione. Successivamente l'imposta sale solo al 17,5%. Invece, le società costituite nelle numerose free zones che operano nei settori della trasformazione del cibo, settore tessile, metallurgico, meccanico, elettrico ed elettronico, chimico, e nei settori dei servizi, se sono collegati a queste attività, godono di imposte pari a zero per 5 anni sul fatturato che deriva dalle esportazioni. Negli anni successivi l'imposta sul reddito prodotto da export è limitata all'8,75% per 20 anni. I dividendi prodotti da queste entità nelle free trade zones non sono soggetti a ritenuta se percepiti da non residenti. E continuando, le imprese agricole con fatturato inferiore ai 5 milioni di dirham, circa 500.000 euro, sono esentate dalla imposta sulla società. Quando il fatturato supera la soglia dei 500.000 euro, l'imposta resta agevolata al 17,5% per 5 anni. Ed infine, dal 2010 è stata istituita a Casablanca la città finanziaria. Le società costituite al suo interno, che operano nei settori legale, auditing, finanziario, risorse umane e consulenza, godono di uno status particolare. In concreto, queste società sono esente da imposta per i primi 5 anni sul fatturato da esportazione. Gli anni successivi l'imposta sul reddito delle società diventa dell'8,75%. Un paese giovane in crescita vicino all'Europa senza che ne faccia parte, forse può essere l'opportunità che cerchi per i tuoi progetti. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate soprattutto di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte, ma proprio tutte, le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero.